dal 99-2000, lavoriamo sull'immigrazione in Italia, seguivamo soprattutto gli arrivi dei kosovari sulle coste salentine. Successivamente abbiamo seguito l'evoluzione dei CPT dalla loro creazione con la presente legislatura un po' all'evoluzione nel tempo. E per questo motivo siamo entrati prima a Restinco, successivamente nel 2002 a Lampedusa, e da lì ci siamo chiesti che fosse stato importante e opportuno avere una visione globale sul fenomeno dei CPT in Italia. Per questo motivo abbiamo richiesto appunto al sottosegretario Mantovano la possibilità di vedere tutti i centri e soprattutto dal punto di vista sociosanitario, ma anche dal punto di vista dei diritti e delle strutture. Abbiamo avuto la possibilità di entrare e finalmente di avere uno sguardo complessivo sul sistema della detenzione amministrativa in Italia. Noi ovviamente non abbiamo fatto un j'accuse a un'amministrazione o all'altra, abbiamo fatto piuttosto un j'accuse all'istituto della detenzione amministrativa sulla base di una serie di risultati che abbiamo riscontrato. Pur esistendo ad esempio delle linee guida fornite dal Ministero dell'Interno nel 2002, in realtà c'è una disomogeneità di trattamento all'interno dei centri. Alcune strutture apparivano tra giugno, diciamo luglio 2003 e ottobre 2003 in gravissimo stato, in particolare le strutture di Lamezia, di Torino e di Trapani, di cui abbiamo chiesto la chiusura. Va detto che dopo la chiusura del rapporto abbiamo saputo che per esempio il centro di Trapani un mese fa è stato chiuso, e di questo ovviamente ci rallegriamo. Dal punto di vista dei diritti, grossi problemi: il 60% delle persone presenti durante le nostre visite erano degli ex detenuti, cioè persone che avevano scontato interamente la pena e aspettavano all'interno di un CPT l'identificazione. La Bossi-Fini prevede che le persone siano identificate all'interno delle carceri, ricevano i titoli di viaggio e appunto vengano espatriati, vengono rimpatriati dalle carceri direttamente. Il fatto che ci sia un 60% all'interno dei centri è molto preoccupante. Un'altra cosa molto preoccupante è l'orientamento legale. Abbiamo trovato una scarsa preparazione degli operatori per quanto riguarda l'orientamento legale all'interno del centro, in particolare nel caso di persone che potrebbero teoricamente richiedere l'asilo e non lo fanno perché manca una mediazione culturale e legale adeguata. Oltre a questo c'è la parte sanitaria. Riteniamo esagerato in alcuni casi, a nostro modo di vedere, l'utilizzo di psicofarmaci all'interno dei centri, che sono sì prescritti dai medici, però non c'è nessun contatto con il SERT, il servizio per le tossicodipendenti delle ASL, e non c'è nessun tentativo di recupero o di disossefazione delle sostanze, di questi tipi di sostanze. Un'altra cosa importante che rileviamo è il fatto che l'assistenza psicologica e sociologica all'interno delle carceri e sociale non è delle migliori. Noi crediamo invece che lì appunto si giochi la partita. Credo che lo stress causato dalla detenzione amministrativa porta a fenomeni di vandalismo e autolesionismo molto gravi. Da questo rapporto esce il fatto che, sebbene ammettiamo che questa amministrazione tenti in qualche modo di porvi dei rimedi e tenti di migliorare l'impianto esistente, in realtà questi centri appaiono un po' fallimentari da diversi punti di vista, su un multilivello, un multisistema, e quindi crediamo che in generale bisogna rivedere la posizione, fare una riflessione politica complessa e strutturata rispetto alla politica dell'immigrazione e in particolare della detenzione amministrativa. Quello che noi chiediamo è che prima di tutto l'ACNUR abbia un accesso maggiore ai centri, visto che è uno tra i pochi enti che può entrare all'interno dei centri senza particolari preavvisi, a meno che non ci siano situazioni d'emergenza. Chiediamo al Ministero dell'Interno che la società civile sia più introdotta all'interno di questi centri per garantire trasparenza e per garantire accesso per esempio all'orientamento legale, e chiediamo forse anche la formazione di un organo di controllo esterno,